Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sono le 23 passate da 9 minuti in questo istante. Buonasera dalla voce di Agostino Spolaore e buonasera dal mio consueto compagno Maurizio. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Buonasera a tutti, buonasera soprattutto anche ai nostri ospiti, cioè Vannuccio. Ciao, buonasera. Zanella e Nino Destra. Buonasera. Perché questa serata? Perché questo orario? Perché dobbiamo proporre un qualcosa di straordinario? Ma prima di proporlo e prima di farvi ascoltare la musica, ma soprattutto la voce di questo grande artista, vi ricordo i nostri cosiddetti dati tecnici, cioè le nostre frequenze. Innanzitutto 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Poi vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it e poi ancora le nostre pagine su Facebook, che sono semplicemente Blu Radio Veneto oppure Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita totalmente dal nostro Alberto Prisco. E soprattutto trovate lì le informazioni per quanto riguarda i nostri eventi live e informazioni anche sulla musica rock, eccetera eccetera eccetera, compreso la classifica. Detto questo, io credo che sia veramente doveroso presentarlo subito, perché è un grande artista, è un grande onore per la nostra emittente averlo in studio, meglio averlo al telefono. In studio l'abbiamo già avuto, anche perché sta presentando insomma un disco straordinario, molto bello, adatto alla musica di Natale. Abbiamo con noi al telefono, ciao Arturo Stalteri. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Arturo. Ciao, buonasera. Come va? Bene? Sì, tutto bene. Quando si avvicina il Natale poi soprattutto va bene. Perché... mi diceva giustamente Vannuccio che il Natale è la tua festa per antonomasia, Arturo. Assolutamente, la mia festa preferita. Solo l'unico, così, la cosa che non mi piace è che non fa affatto freddo a Roma, e questo un pochino mi toglie un po' di magia, diciamo. Cosa dici, Vannuccio? Ha detto che non dovrebbe venire qua da noi. Esatto. domani ci siamo, vero Arturo? Domani sentirò un po' di freddo. Bene, ne parliamo dopo di cosa succederà domani. Arturo, è Little Christmas Album, perché questa idea di un disco di Natale? Parlavamo prima a microfono spento, in Italia non c'è la tradizione dei dischi di Natale, Arturo. È vero, non c'è, però c'è tantissimi esempi all'estero, in Inghilterra, in America, in Germania, quasi tutti lo fanno prima o poi. Anzi, io mi domando come mai ho resistito finora. Ce lo siamo chiesti anche noi. Perché Natale, insomma, io l'ho sempre amato da quando ero bambino, proprio quel classico Natale in famiglia con l'albero addobbato e tanti amici, insomma, è una cosa che mi porto nel cuore e mi ha sempre accompagnato. E poi mi è servito anche a passare un agosto migliore, perché io odio il mese d'agosto, odio l'estate, quindi l'ho passato invece a incidere il disco, per cui è stato, insomma, un modo molto bello di sentire il Natale anche a Ferragosto. Sì, hai fatto un Natale anticipato, insomma. Ho fatto un Natale anticipato, sì. credo che si senta un po' nel disco, insomma, che è stato fatto con grande divertimento, con grande amore. Beh, sicuramente è stato fatto con la tua usuale perizia, Arturo, che non è squisitamente tecnica, come insomma io ho imparato a conoscerti negli anni, questi splendidi anni di amicizia, ma è soprattutto proprio il modo che hai di trasmettere poi quello che tu provi e lo trasmetti perfettamente all'ascoltatore, dopo che siano tasti neri o bianchi del pianoforte non importa, è come tu ci metti le dita sopra. Insomma, io ci provo ovviamente, io credo che la cosa più importante sia essere sinceri, cioè fare quello in cui si crede, se ci credi veramente poi credo passi, no? Riesci a comunicarlo. No, assolutamente, poi diciamo lo spirito del Natale lo sentiremo meglio nelle canzoni dopo, e sicuramente interpretato, anche se era pieno agosto, magistralmente. Esatto, il piano è il metro comune denominatore di tante cose che tu hai fatto, che continui a fare, e questo disco è il piano, cioè un piano natalizio, ma tra virgolette, tra molte virgolette, Arturo. Ma sì, dunque tanto è un disco in cui uso varie tastiere, però diciamo all'80% uso un pianoforte, un Bessendorfer che ha 100 anni. Però vedi, già dà un certo senso anche quello che hai detto, sì, in questo momento. Esatto, ha un suono molto, molto caldo e è stato lasciato praticamente così, c'è pochissimo lavoro dal punto di vista di equalizzazione. È stato fatto praticamente quasi in casa, nel senso, un mio amico che ha un piccolo teatro a Roma con questo bel Bessendorfer mi ha detto stai tranquillamente qui tutto il tempo che vuoi e regista su questo bel pianoforte, quindi è nato così. E poi ho usato anche altre tastiere che ho io, dei sintetizzatori, un pianoforte elettrico, un clavicembalo, ho cercato di mettere anche un po' altre tastiere, ma il protagonista, e poi c'è un violino, un violoncello, ci sono tante cose, c'è anche addirittura canto. sono tornato a cantare dopo tanti anni, però insomma ecco, quel pianoforte secondo me dà poi quel colore un po' antico, no? Secondo me al disco. Esattamente. Ma tra l'altro io volevo anche dire un'altra cosa, Arturo. Effettivamente non c'è una tradizione in Italia di canzoni natalizie, e anche secondo me, sai, fare una serie di canzoni natalizie prendendole a prestito dalla tradizione anglosassone in Italia suonerebbe un po' strano. Molto meglio quindi avere lo spirito che hai usato tu, cioè tradurre la canzone natalizia, a cui siamo comunque abituati anche di tradizione anglosassone o più largamente europea, ma trasferendola quindi a uno strumento classico come il pianoforte piuttosto che a una voce. Sì, infatti, ma poi comunque era un po' obbligatorio, nel senso che io chiaramente, essendo un amante del Natale e possedendo quasi 400 dischi di Natale, quindi avendolo frequentato per tanto tempo, proprio ho scoperto che il 90% sono tutti canti che vengono o dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, comunque dopo, poco dalla Francia e qualcosa dalla Germania. In realtà noi abbiamo, da quello che io so, qualche canto popolare oltre alla celeberrima Tu scendi dalle stelle della Bada Liguori, quindi era un po' obbligo andare a, si può dire, a scartabellare fra in quella tradizione lì. Arturo, perché solo adesso o recentemente un disco di Natale? Da quanti anni che lo pesi nella tua mente? Guarda, io credo che lo penso da almeno 15 anni. Ecco, bene, questa è una cosa positiva. Però io mi sono accorto che sono un po' lento, come penso a un disco dedicato interamente ai Rolling Stones da 10 anni, quindi forse fra 5 anni riuscirò a... Ci prenotiamo subito, io mi prenoto immediatamente se farai questo discorso. Mi piacerebbe molto, non lo so perché ci metto così tanto poi a fare le cose, nel senso che ci sono anche tre pezzi miei in questi, sì, certo, scritti apposta. In realtà uno di questi io l'ho composto quasi 10 anni fa, però in realtà è uscito solo ora nel disco, non so, questa è una cosa che non ho ancora ben capito, si vede che ho bisogno di arrivare fino a un certo punto in cui proprio non posso più farne a meno, e a quel punto faccio tutto in brevissimo tempo. E allora Arturo, io direi, cominciamo già a far sentire uno di questi brani, forse quello più moderno fra quelli che abbiamo messo nel disco, che è un brano di Sufjan Stevens, Put the Lights on the Tree. E Maurizio prima si chiedeva come mai questa scelta di Sufjan Stevens. Ma perché lui, a parte io adoro Sufjan Stevens, soprattutto per Illinois, che per me è un, sì, capolavoro assoluto. Poi perché lui ha inciso attraverso il tempo questi 5 mini CD di Natale che poi ha raccolto in un bel cofanetto che è uscito alcuni anni fa. Lui, oltre ad aver interpretato in maniera originalissima, secondo me, i classici, ha anche composto delle canzoni, secondo me, deliziose, che potranno tranquillamente diventare in futuro dei classici come Jingle Bells, come White Christmas, tra cui appunto questa Put the Lights on the Tree, che è di una freschezza. Poi nel suo disco la canzone è molto più, potremmo dire, rumorosa, no? Un po' più stragolosa, ci sono molti amici che cantano, ci sono molti strumenti, invece l'ho resa molto più semplice con un pianoforte elettrico, la mia voce e alcuni amici comunque che fanno il coro, quelli li ho voluti assolutamente. Noi abbiamo scritto che è diventato un classico nella tua versione, Arturo, secondo me. Beh sì, io sono contento di questo, ma chiaramente ho voluto farlo in maniera molto diversa da come la fa lui. Certo, quindi, certo. Altrimenti certo. Non ci sarebbe. Però io trovo, ripeto, trovo che il contributo che lui ha dato al repertorio di Natale è un contributo che durerà negli anni. Ok, lo sentiamo allora. Volentieri. Phone. if she's living all alone. Tell her Jesus Christ is here. Tell her she has none to fear. If she's crying on the phone, tell her you are coming home. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Stiamo cercando di conoscere un album stupendo, questo Little Christmas album di Arturo Stalteri. Vi ricordo i nostri numeri telefonici se ci volete mandare qualche messaggio, anche qualche domanda da fare allo stesso Arturo. Vi ricordo è il 346 23 20 033 per quanto riguarda gli sms. Invece se ci volete chiamare in studio, vi ricordo è lo 049 875 6423. Arturo, ci sei sempre? Sono sempre qui, eccomi. Eccoti qua. Nino e Vannuccio, quanto è bello lavorare con Arturo? Ma io devo dire, per me ovviamente è strepitoso, nel senso che sembra una frase fatta, però devo dire che è un onore. Sempre e comunque, primo perché Arturo presenta dei lavori strepitosi. Non c'è mai una volta di cui mi sia in qualche maniera lamentato del suo lavoro. Di converso è una persona splendida, Arturo. Chi lo conosce molto probabilmente può facilmente confessare quanto bello sia comunque lavorare con Arturo Stalteri. Poi questo è un pezzo meraviglioso, Arturo, che giustamente Vannuccio diceva a microfono spento, è una lullaby, una ninna nanna, può andare all'infinito, non dà fastidio, riesce a cullarti. Cosa dici, Arturo? È vero, sono d'accordo, sì, è vero, tant'è vero che ad esempio la parte centrale io l'ho ripetuta molte volte senza che accadesse nulla di nuovo, perché mi ero quasi ipnotizzato mentre la stavo suonando. È un po' questa una grande magia. Poi io sono diventato molto rosso mentre Vannuccio parlava, perché sono sì, anche questa è una caratteristica esagera, perché così è un'opinione forse un po' troppo insomma dire buona di me, nel senso che io credo di essere una persona più che altro che prima di proporre un lavoro ci penso tanto, no? Come ho detto, quindi magari quando poi arrivo a farlo sono abbastanza convinto che ci sia qualcosa dentro, però sai, potrei anche sbagliare, quindi ovviamente per me è una conferma sapere che poi invece ci sia una, così, un reale interesse, quindi... Non arriva sempre al punto giusto, Arturo. Si mette sempre in dubbio, no? Quando si fa questo, siamo sempre tanti dubbi quando si fa questo lavoro, perché non è detto che quello che piace a me magari sia in realtà qualcosa di interessante anche per gli altri. E se, se tanti altri artisti un po' più vanitosetti fossero un pochino più, capito, scrupolosi su se stessi, uscirebbe magari della musica un po' migliore di quella che spesso purtroppo siamo costretti a sentire. Beh, su questo è verissimo, posso confermarlo io, da esperienza, insomma. Capita. Però Arturo, noi volevamo fare un saltino, restando sempre in America, però entrando un po' più su una tradizione recente, e volevamo ascoltare invece in questo caso Santa Claus is Coming to Town, un brano che in teoria è entrato anche in tutte le classifiche pop, diciamo, effettivamente è stato cantato da Frank Sinatra fino a Bruce Springsteen, Mariah Carey. E l'altro giorno su Facebook, su YouTube ho trovato una versione stranissima, semi quasi metal addirittura, di Alice Cooper. Però. Un video veramente terrificante, devo dire. Sì, beh, tra l'altro, ci fa piacere anche farla sentire, perché è uno dei brani. È il mio brano preferito, ecco. Natalizio, e devo dire, Arturo, che il clavicembalo è perfetto. Guarda, anche perché io poi l'ho collegata invece a un'altra canzone popolare che io non mi ricordo più. Good King Wenceslas. Esatto, Good King Wenceslas, che è una canzone molto, molto bella, un canto di questo re buonissimo che usciva di notte e andava a regalare danaro ai poveri che chiedevano l'elemosina per strada. Era molto bella. E allora noi ascoltiamo questa favola nella tua versione al clavicembalo. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Che bello questo pezzo, Arturo. Bella l'atmosfera. Parlavamo con Vannuccio e Nino, microfono spento. Tutti siamo, può darsi che c'è la capacità di fare un disco di Natale, però fare in una certa maniera no. Ed è anche un coraggio, sei stato coraggioso secondo me, fare in una certa impostazione, Arturo. Sì, beh, cioè, perché in realtà è un disco molto semplice, in cui c'è pochissimo, no? Non ho lavorato molto sugli arrangiamenti, ma sul modo di vedere i pezzi. Ad esempio questo qui appunto di Santa Croce di Scalma in Tutano l'ho pensato quasi come se l'avesse suonato Mozart, no? In questa maniera un po' settecentesca, appunto ho scelto il clavicembalo. Quello a cui tenevo appunto è che fosse proprio un piccolo disco di Natale, ma piccolo nel senso non di durata, perché anzi dura più di un'ora, piccolo nel senso di molto bambino, un disco molto bambino, tenero, un po' infantile. E per questo ho cercato di usare sempre pochi strumenti con dei suoni tutto sommato molto classici. Beh, anche Mozart giustamente scrisse Eine kleine Nachtmusik, quindi nel tuo caso sarà Eine kleine Christmas Musik. Ecco. Per cui. Il riferimento è anche, sempre nelle discussioni che stiamo facendo qua, il riferimento era anche molto alla copertina che poi è stata in qualche maniera utilizzata. Questo disegno infantile, sì, vuoi raccontarci tu di chi è? Ma guarda, il disegno infatti è di un bambino, si chiama Luca ed è il figlio di una mia amica, la mamma lo ha un pochino aiutato, diciamo la verità, infatti l'ho citata. Però è proprio il disegno di un Babbo Natale fatto con le matite colorate, con una slitta, con una sola renna oltretutto, con una faccia un po' così, anche piuttosto tenera, che sta in mezzo al cielo e sotto si vedono gli alberi e sopra si vedono le stelle. Insomma, io lo trovo molto, molto bello, cioè molto veramente in linea con quello che è poi il suono del disco. Beh, quella che è un po', se vuoi, il candore natalizio, esatto, candore nel senso di lo stupore del Natale. Ma secondo me sei riuscito benissimo a trasmetterlo in tutto quello che è stato messo su questo disco. Ma anche perché poi io ci credo a Babbo Natale, per cui è chiaro che alla fine uno risulta convincente. Tra l'altro, altra domanda che volevamo farti, ma nella foto interna del libretto ci sei tu che stai abbracciando un lama, ma sì. Era vero questo lama? Sì, sì, sì, sono io quando ero piccolo, quando ero bambino, mi ricordo che mi portarono appunto a trovare Babbo Natale, ma non so perché invece di una renna c'era un lama, questa è una cosa che onestamente non... Forse per le corna. No, cioè, perché il classico lama, Arturo, che c'era lo zoo di Roma, anch'io ho una foto dell'epoca, lo zoo di Roma, con un lama vicino. Secondo me è lo stesso lama che è stato trasportato. Lama che se lo passavano. E quindi mi piaceva mettere quella foto, perché ecco, anche quella foto secondo me rappresenta il disco, cioè è come se l'avessi fatto quando ero bambino, perché dentro sono rimasto un po' bambino, per mia fortuna o per sfortuna, perché poi per altre cose ovviamente ho le fragilità che può avere un bambino in un mondo di pescecani come quello in cui viviamo, e quindi chiaramente tutto questo poi si è rispecchiato anche nel modo in cui ho interpretato i pezzi, che ho voluto fare, appunto ripeto, li ho fatti molto semplicemente anche dal punto di vista tecnico, non c'è alcuno sfoggio tecnico, forse un pochino in Away in the Manger, in cui ho fatto una parte centrale un po' già vecchiana, in cui ecco mi sono lasciato un pochino più andare a un discorso di virtuosismo. Ci sono tre pezzi tuoi originali, quanti pezzi tuoi originali hanno pronti che per motivi diversi non hai voluto inserire in questa tracklist? Tu dici pezzi scritti per scritti il da Natale? Te per Natale, sì, esatto. No, guarda, ti dico la verità, che in realtà non ne ho altri, nel senso che allora uno di questi, Christmas Improvisation, l'ho improvvisato proprio in studio, cioè proprio in quel momento là. Sì, ho cominciato a suonare, ho lasciato andare, capito, per le mani per 10-15 minuti e poi ho preso le parti migliori e ho fatto un lavoro di montaggio lì, effettivamente, ed ha funzionato. Uno, invece, Christmas Night, è un'incisione dal vivo, un pezzo che avevo appunto composto 10 anni fa e che suonai a Londra proprio sotto Natale, in una chiesa molto bella. E siccome venne molto bene anche la registrazione, mi è sembrato carino mettere proprio quella dell'epoca. E poi l'altro appunto che si chiama Christmas Past, Christmas Present, Christmas Yet to Come, sono parole di Dickens dal Canto di Natale, poi i fantasmi del Natale passato, presente e futuro, quello è nato invece dalla voglia di fare un pezzo che fosse in qualche modo legato al minimalismo, che è una scuola a cui così ancora sono molto legato, e anche quello però in fondo è basato su tre accordi, quindi è di grande semplicità, ma non ne ho neanche pensati altri, devo dire, cioè non c'è stato un lavoro, capito, di potremmo dire di scelta. Quei tre ho composto e quei tre ho messo. E allora, noi facciamo invece un'altra scelta prima di presentare proprio questi inediti. Torneremo un attimo sul Natale più classico. Io direi che possiamo effettivamente a questo punto ascoltare Silent Night. Che per me è il pezzo più bello che sia mai stato scritto per il Natale. Visto che anche il primo che hai messo nel CD mi sembra l'ideale. E Silent Night sia. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, Arturo. Io e Nino abbiamo fatto questa domanda, facciamo ad Arturo: che sensazione, che emozione hai avuto a suonare questo Silent Night, un piano di 100 anni? Guarda, è stata una cosa bellissima, devo dire che io ho sempre amato questo pezzo tantissimo, tantissimo, ne ho veramente, non so, 100 versioni diverse, qualcosa del genere, lo hanno fatto veramente tutti. E ripeto, era agosto, ma per me era la notte di Natale, cioè ho dimenticato tutto. Tra l'altro io mi sono un pochino ispirato, questo lo voglio dire, ma come concezione, a un artista americano che lui si fa chiamare Mannheim Steamroller, ma si chiama Chip Davis, che è una passione per il Natale, ha fatto 3 dischi di Natale bellissimi, ha fatto una Silent Night che è veramente da brivido, con pianoforte e violino, strepitosa. E ho pensato molto a lui mentre la suonavo. E io spero che la sentiremo anche domani sera. Volevo ricordare un appuntamento, intanto, che è per domani sera all'Hotel Bologna di Mestre, concerto di Arturo Stalteri. Ed un secondo concerto, sempre in Veneto, finalmente ogni tanto ci viene a trovare, che è al Teatro Busnelli di Due Ville in provincia di Vicenza il 28 di dicembre. Esatto, entrambi saranno aperti da Silent Night, ovviamente. Chiaramente. Nino, ricordiamo il sistema per poter essere, per accaparrarsi il disco, per trovare allora, il disco. Allora, la cosa migliore è sicuramente visitare il nostro sito www.gtmusic.it e appunto magari scriveteci e vi daremo tutte le informazioni del caso. Bene, bene, bene, esattamente. E allora, Arturo, noi volevamo ancora continuare nei brani tradizionali, questa volta saltando invece in Germania e quindi parlando di un abete ben particolare, quindi volevamo far sentire O Tannenbaum, cosa dici? Sì, lì tra l'altro lì ho usato un Rhodes, un pianoforte elettrico, che sembra uno strumento non adatto, invece secondo me ha dato quel suono un po' da Carillon che rende questo pezzo, che è un altro dei miei preferiti anche, uno di quelli che amo di più. Insomma, mi sembra che renda giustizia, insomma, almeno all'atmosfera della canzone, del canto stesso. Beh, sai, infatti anche la nostra scelta, che comunque è stata difficile, visti i tempi che comunque abbiamo cercato di in qualche maniera testarti nei diversi strumenti in cui ti sei cimentato. È vero, è vero. E allora ascoltiamoci questo O Tannenbaum al piano Rhodes. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Questo è un classico, Nino Evannuccio, assolutamente un classico, fatto con le mani, quel tocco di Arturo. Non so come giudicarlo, diventa un classico, un altro tipo di classico. Diventa come posso dire, un'espressione diversa. È un'espressione diversa. Anche perché, come giustamente diceva Arturo, l'utilizzo del Rhodes, noi siamo molto abituati a sentirlo in brani o fusion oppure di funky, no? Certo. E invece eccolo qua, è proprio sotto una beta, vero Arturo? Sì, infatti poi tra l'altro questo è un pezzo, pare, non si sa bene di quale epoca sia, ma addirittura c'è chi pensa che il canto sia addirittura dell'anno 1000, quindi proprio qualcosa di antichissimo. Beh, c'erano stati gli elfi citati in studio a lavorare con te che avranno ispirato un po' tutta questa cosa. Mi no? sono concesso questa libertà un po' alla Babbo Natale. Mi sembra giusto, insomma. Arturo, Ricky Sakamoto e David Crossing hai citato, hai ripreso, hai trasformato. Perché questi due musicisti, questi due autori? Vabbè, Luigi Sakamoto io lo amo tantissimo, in Merry Christmas avevo già suonato al pianoforte anni fa e ho avuto la possibilità di poter rifare questo pezzo con Yasuo e Ito al violino, che lei è giapponese, per cui proprio ero, diciamo, è un'investitura assoluta poterlo fare con una violinista giapponese. Del Grusin in realtà perché sono rimasto stupito da un disco bellissimo di James Taylor di qualche anno fa dedicato al Natale, che lui ha fatto con Del Grusin, e c'è questo pezzo che in realtà è cantato, il testo, questo Who Comes This Night. Il testo di James Taylor, ma la musica di Dave Grusin, ed è una musica bellissima. Tra l'altro nel disco c'è un arrangiamento delizioso con una piccola orchestra e con il pianoforte, e poi c'è la voce meravigliosa di Taylor, che secondo me è una voce magica. Sì, sì, Taylor ha fatto, giustamente tu citavi quel disco di natalizio di Taylor, decisamente molto interessante. Alla Taylor, dobbiamo dire questo, alla Taylor, con quel modo particolare che ha lui di cantare, di prendere, di avvolgere gli ascoltatori. Sì, bellissimo. Sembra che ti canti, che ti sussurri all'orecchio e te lo senti proprio subito molto vicino. È un personaggio di grandissimo talento. Io invece adesso andrei a ascoltare invece uno degli inediti di Arturo. Tra l'altro proprio quello che citavi, ispirato da Dickens, Arturo. Lo scelgo per due motivi. Uno, perché è più lungo il titolo che il brano. È vero. E secondo, perché secondo me, sai, la prima volta che l'ho ascoltato, secondo me è il pezzo forse più bello di tutto il disco, e mi ha dato l'idea quasi di una tempesta di neve, di dover in qualche maniera essere in questa slitta tirata forse dai cani, forse non dico dalle renne perché mi sembra un po' troppo, però ed essere avvolti in questa tormenta di neve, ma non perché sia fastidioso il brano, ma semplicemente proprio per la in questo caso devo dire l'assoluta sia genialità dei tre accordi di cui parlavi prima, ma tre accordi si possono lavorare e combinare in una maniera molto particolare, come tu sai fare, come io direi di andare ad ascoltare. Benissimo, sì, che poi mi sono accorto che in effetti sono quattro. No, lì questo è l'unico pezzo in cui ho usato un piccolo effetto all'inizio. Il pianoforte sembra venire da molto lontano, cioè non è un'assolvenza, è più come se ci fossero tante porte chiuse, tu lo senti da lontano e poi pian piano le porte si aprono e il pianoforte quindi così diventa molto più presente. E allora ascoltiamolo, vediamo se anche gli ascoltatori avranno lo stesso tipo di impressione che abbiamo avuto noi. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Arturo, come fai un minuto e 40 secondi scarsi ad entrare così profondamente nell'animo della gente, a me compreso, che ho ascoltato più di una volta questo pezzo? È un com'è? Hai quel quid? Come nasce, Arturo? Ti ringrazio, io lo vedo proprio, questo è un pezzo, è come se l'impressione che mi dà è come se fosse già cominciato da molto tempo e continuasse anche quando si, per la forza non si sente più, quasi un flusso. Mi è venuto quasi completamente di getto, non dico improvvisato, però molto di getto, devo dire, sì. Poco pensato, ecco. E Arturo, citiamo anche gli altri musicisti che ti hanno dato una mano, oltre alla violinista che abbiamo già citato. Assolutamente, oltre a Yasuo e Ido, appunto, al violino, c'è Laura Pierazzuoli al violoncello, che collabora spesso con me, poi voglio citare Pino Zingarelli, che ha curato il suono, ha fatto il missaggio, ha fatto un piccolo, anche in questo caso, piccolo miracolo, perché lui riesce poi a sistemare anche le mie magagne quando io magari incido senza di lui e quindi faccio qualche pasticcio, ma lui riesce sempre a rimettere tutto a posto, quindi assolutamente la sua presenza è stata molto importante nel disco. Fondamentale, diremmo pure. Cosa dici, Banucci? Io penso di sì, primo perché, sai, spesso e volentieri noi ascoltiamo dei dischi interi, tra virgolette, di pianoforte. Effettivamente il pianoforte suona uguale dall'inizio alla fine. Io penso che anche in questo caso, invece, e Pino è un collaboratore da tempo di Arturo, e quindi immagino abbiano una sinergia loro che assolutamente si sente, riesce a darci sempre delle timbriche diverse, brano dopo brano, tale per cui tu in qualche maniera ti innamori e non ti stanchi mai. Quindi penso sia una sinergia non indifferente. Sì, questa. Ma poi Pino ha una particolarità. Ad esempio, di solito i dischi di pianoforte si usano, non so, un certo riverbero e si mette quel riverbero per tutti i pezzi. Invece Pino ha una convinzione che non deve essere così. Che quindi lui usa per ogni pezzo un riverbero diverso, magari comunque, capito, non usa lo stesso riverbero per tutti, magari un pezzo in cui il pianoforte ha molte note ne usa un certo tipo, un pianoforte invece un po' più statico lui lo allunga. Quindi è una caratteristica che devo dire che ha solo lui, almeno io ho lavorato con tanti tecnici in passato e quasi, devo dire che mai nessuno ha fatto una cosa del genere. Insomma, anche questo è, come si può dire, fa parte della professionalità poi. Sì, no, secondo me anche il fatto di avere coraggio, di avere un proprio gusto e magari di andare oltre quella che sembra una tradizione ormai radicata e che non si può assolutamente infrangere, no? Invece è proprio grazie... Certo. Alla voglia di fare questi tentativi che poi le cose vanno avanti, no? Sì, senza che Beethoven o Mozart non avessero continuato a comporre come si componeva prima, cioè gli davano dei pazzi quando presentavano certe opere, quindi però per quello erano dei geni, insomma. Ecco. Beh, sicuramente, e lo sono anche tuttora, voglio dire, non sono ancora stati. Beh, Mozart continua, insomma, a stupire questo nuovo Don Giovanni alla Scala, insomma, che ha fatto parlare molto, però ci dimostra come la sua musica possa ancora stimolare delle scenografie estremamente diversificate attraverso gli anni. Sicuramente, e come giustamente si diceva, la sensibilità poi di interpretazione del direttore d'orchestra fa in modo che sia sempre più attuale. Esatto, esattamente. Ecco, allora noi volevamo attualizzare un'altra cosa e di cui abbiamo parlato prima, ed era il famoso brano di Ryuichi Sakamoto. E anche perché in questo caso abbiamo l'intervento di Yasuo Ito al violino e in questo caso il pianoforte è stranamente, dico io, ovattato. Sì, perché non è un pianoforte acustico, infatti. È tutto giapponese questo pezzo, perché il pianoforte è un pianoforte Yamaha campionato, però è un campionato degli anni 80, è uno dei primi pianoforti Yamaha campionati che io ho ancora a casa, è un Clavinova, di cui sono molto orgoglioso, perché ha un suono fintissimo, però secondo me è un suono molto bello, e per un pezzo così, perché il pezzo di Sakamoto ha questa sonorità un pochino orientaleggiante, secondo me era lo strumento ideale. Infatti... qualcuno mi ha detto, ma come mai questa volta il pianoforte è così ovattato mentre invece è così aperto in altri brani? Perché proprio è il timbro del Clavinova, che tra l'altro stride un po' con il violino, anche questo è stato fatto volutamente, che invece è molto aperto. Certo. E tra l'altro Yasuo qui è stata molto carina perché era a Tokyo, quindi le ho mandato il file, lei mi ha mandato il violino e poi io l'ho messo sopra il pianoforte. Vabbè, cosa che una volta era impossibile fare, e in questo devo dire la tecnologia ci ha dato una grande mano. È un grande prodigio, ma sai, dà secondo me ancora più il senso giapponese, a parte diciamo il fatto di aver usato uno Yamaha e una violinista giapponese, no? Sì. Dà veramente l'idea di questa nebbia in un bosco di bambù, che forse non è molto natalizia come idea, ma d'altronde io non ho nessuna idea di come sia un Natale in Giappone. Sì, appunto, del resto anche il pezzo di Sakamoto non è natalizio, perché il film di Nagisa Oshima, appunto, Marikisa Mr. Lawrence, ha ben poco di natalizio, esatto. Esattamente. Quindi è stata una libertà che ci siamo concessi. Allora io direi, ascoltiamola, certo. E dopo salutiamo Arturo. Arturo. Certo. Perfetto. Radio. Rock Wave. L'onda del rock. C'è poco da fare, caro Arturo. C'è magia. Tutto il disco c'è magia. Questo è un po' più particolare, se mi è consentita l'espressione. Perché questo è un pezzo, secondo me, meraviglioso. Cioè, vorrei averlo scritto io. Non so come ha fatto. Sembra quasi un mantra, è qualcosa che potresti ripetere per ore, cioè ti entra proprio dentro. Io a volte a casa mi incanto a suonarlo e passa il tempo e non me ne accorgo. Veramente c'ha una magia, già, diciamo che è un pezzo che ti aiuta molto, ecco, perché ti cattura mentre lo suoni. Certamente. Adesso facciamo un po' di informazione per avere il disco, Nino. Allora, niente, la cosa migliore è visitare il nostro sito, ricordo che è www.gtmusic.it. Niente, ricordo che il disco è stato stampato dall'etichetta Musiche Particolari Records, appunto distribuito dalla GT Music Distribution. Siamo appunto un'etichetta e una distribuzione qui della provincia di Padova, di Tombolo, zona Cittadella. E Vannuccio, ricordi tu i concerti di Arturo qui in Veneto? Io ricordo i concerti di Arturo. Allora, domani sera all'Hotel Bologna a Mestre alle 21:30, concerto appunto di Arturo Stalteri. Concerto che verrà poi replicato, diciamo, il 28 dicembre, sempre alle 21:30, al Teatro Busnelli di Due Ville a Vicenza. Io volevo dire che si può vedere anche tutti e due i concerti, perché chiaramente cambierò un po' il programma, quindi non farò una fotocopia, questo per chi possa essere interessato anche no, beh, a vederli tutti e due, insomma, non sarà una replica esatta del primo. Assolutamente, ma questa è una tua caratteristica, Arturo. Dimmi, farò sempre lo stesso programma. Dimmi questa settimana quanto hai studiato. È tanto. Guarda, sembra sciocco, ma è più impegnativo suonare bene questi pezzi natalizi che altre cose, perché sono pezzi che suoni solo chiaramente in un certo momento dell'anno e quindi è facile perderli e sono meno semplici di quello che sembri ad ascoltarli. Beh, cioè, ma questo comunque ti fa sempre onore in ogni caso, insomma, non sei uno che arriva al concerto no, da diciamo sprovveduto. Non mi riposo sugli allori, no. Sono una persona talmente ansiosa che, insomma, se non sono più che preparato non mi azzardo. Certo. Arturo, a proposito, noi abbiamo ricordato i concerti, abbiamo ricordato il sito della GT Music. Vuoi ricordare invece il tuo sito? Sì, il mio sito è www.arturostalteri.it, poi naturalmente uno spazio su MySpace e, come ormai tutto il mondo, su Facebook, perché se non sei su Facebook sembra oggi che, insomma, che tu non esista, allora anch'io sono lì. No, esisti benissimo, guarda, più di Babbo Natale. più di lui mai. Ecco. Va bene, Arturo, prima di salutarci volevo porgerti i nostri auguri da parte di tutta la nostra emittente Blu Radio Veneto, di cuore a te e ai tuoi cari, di un buon Natale. Grazie, ovviamente li ricambio con tutto il cuore. Dire buon Natale è una cosa che sta bene, però, certo. Secondo me è una cosa veramente terapeutica. Io te la butto lì, se per caso passi e hai voglia di venirci a trovare per fare un'oretta e mezza di intervista, sai che le porte sono aperte per te, Volentierissimo, speriamo prestissimo, dai, veramente. A parte che appunto vengo su un paio di volte, però penso siano serate in cui magari... No, ma ci mettiamo d'accordo prima. Ci organizziamo prima. Grazie. Grazie a te della partecipazione e della disponibilità di questa sera. Con cosa terminiamo, Vannuccio? Abbiamo deciso io, te e Nino, all'insaputa di Arturo. Allora, noi abbiamo deciso, visto che ormai il giro del mondo su questa slitta con le renne l'avevamo quasi concluso tutto, mancava i nostri cugini d'Oltralpe. Esatto. Quindi pensavamo di chiudere con un pezzo che tu, tra l'altro, canti in francese, cioè Ilené. Bellissimo, pezzo del 1600 addirittura. Incredibile. Riportato in questa veste assolutamente dorata da Arturo Stalteri nel 2011 e per un Natale ancora più strepitoso. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie Arturo. Ciao, Arturo. Ciao, grazie ancora. Ciao.